palazzo dirimpetto, sembra un vero varietà. C'è un simpatico terzetto, mamma, figli ed il papà. Con la radio d'occasione fanno a gara tutti e tre, per sentire ogni canzone e cantarle poi da sé. La famiglia canterina, dalla sera alla mattina, zitta zitta piano piano fa in sordina il friulescano. Chi vuol sempre Boccaccini, chi l'orchestra di Angelini, chi orecchi spalancati per Alberto Ravagliati. Mamma vuol la melodia, ma la figlia invece vuol il maestro Petralia, quando fa un accordo in sol. Il papà si mette in lista, vuol sembrar Pippo Barzizza, sbaglia il tempo ma che fa, tanto Pippo non lo sa. Quando il sole è già lontano, ogni luce sparirà, ma la radio al quinto piano sempre accesa resterà. Mentre tutto il vicinato finalmente può dormir, un fracasso indiavolato li risveglia lì per lì. La famiglia canterina, dalla sera alla mattina, zitta zitta piano piano fa il sovino e il friulescano. Chi va sempre Boccaccini, chi lo che fa di Angelini, chi sa orecchie spalancati per Alberto Ravagliati. Mamma vuol la melodia, ma la figlia invece vuol il maestro Petralia, quando fa un accordo in sol. Il papà si mette in lista, vuol sembrar Pippo Barzizza, sbaglia tempo ma che fa, tanto Pippo non lo sa. Biancastella, l'altra vuol la carrozzella, e papà canta in sordina la Madonna Fiorentina, mentre lei con sentimento canta vieni in braccio a me. Lui sospira vento vento, te la porti via con te. Ma da quando c'è Bonino canta lei con inquilino, e lo sogna da lontano con Basile il friulettano.